Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two. Sound check. Microphone check. Il suono della musica di JJ Telesco. Seconda parte oggi dedicata al management artistico qui al Soundcheck di Radio 24. Buon pomeriggio da Giorgio Telesforo e buon pomeriggio al nostro Roberto Ramberti, docente di management artistico presso la Casa dello Spettacolo di Roma, esattamente nell'ambito dei corsi di formazione professionale per lo show business. Quindi buon pomeriggio Roberto. Grazie dell'ospitalità e buon pomeriggio a tutti. Ieri abbiamo raccontato quanto è complesso il lavoro di un management artistico, il lavoro di un manager che deve organizzare la grande tournée a una superstar internazionale come Janet Jackson, Prince e via dicendo, e mi ha detto che l'aspetto più difficile è proprio quello umano, perché gli artisti sono sensibili, hanno dei caratteri particolari e quindi quella è la prima cosa complessa da affrontare, oltre poi a tutti gli aspetti imprenditoriali, al business plan e tutti gli accorgimenti tecnici che servono per mettere su un'impresa di quel tipo. Oggi invece vorrei puntare l'accento su quanto è complicato invece il lavoro per la ricerca di un nuovo talento e come si fa a lanciare un nuovo talento, parlando del nostro paese, sul mercato discografico e sul mercato live in Italia. Quindi se si dovesse presentare da te un giovane artista, un giovane cantante, qual è la prima cosa che gli chiedi? La prima cosa che gli chiedo intanto è capire se ha talento. Ecco, quella è alla base, mi sembra giustissimo. Perché se non c'è quello non parliamo di niente, quindi gli consigliamo molto gentilmente di cambiare mestiere. Va bene, ma ammettiamo che il ragazzo abbia talento, allora che succede? Ormai ci sono due strade fondamentalmente. Una è la scorciatoia televisiva, chiamiamola così, anche se è molto importante ed è non è esattamente una scorciatoia, ma insomma è la strada dei talent e quindi la grande esposizione televisiva immediata. Oppure c'è la gavetta nei club, il montaggio e lo studio del mestiere proprio del palcoscenico, perché quello è ci sono tanti trucchi del mestiere che vanno conosciuti. Ecco, perché sono cambiate proprio le dinamiche. Una volta realizzare una produzione discografica era un punto di arrivo, no? Una sorta di premio per il lavoro svolto, per tutta la gavetta e quello che un artista o musicista aveva già fatto, quindi un bagaglio musicale già rodato. Oggi invece si parte proprio da una produzione discografica e magari ritroviamo sul palco artisti che hanno un piccolo successo discografico, però poi quando calcano le tavole del palcoscenico arrancano, non è così? Sì, è così, per alcuni di questi è così perché si ritrovano su palchi anche molto importanti senza averne non voglio dire titolo, ma perché titolo ce l'hanno se hanno fatto una produzione discografica che è andata bene, però non hanno appunto il mestiere, non conoscono il sudore che bisogna mettere su un palco, quello ci vuole. Il famoso funk del quale mi parla sempre l'amico Larry White, bisogna avere funk, l'afrore della musica. Allora, nel corso della tua carriera e quindi realizzando direzioni artistiche, produzioni discografiche e tutto il resto, hai avuto a che fare con musicisti importanti e una delle tue band preferite, anche perché credo che il leader sia veramente una persona molto garbata, oltre a essere un eccellente musicista e compositore, la band in questione è proprio quella degli Incognito. Che cosa ti richiedevano gli Incognito nei festival che tu hai gestito? Gli Incognito sono una band molto carina, non hanno grossissime pretese dal punto di vista logistico, sono molto attenti all'aspetto tecnico, quindi curano moltissimo tutto quello che è il suono e tutto quello che ne segue. Una cosa che hanno però voluto a tutti i costi era sul palcoscenico, quindi nel backstage, il caffè, una macchina del caffè per farsi il caffè in continuazione, non so perché avevano questa cosa, quindi abbiamo dovuto predisporre una macchina da caffè al volo espresso nei camerini. Beh, insomma, non è una cosa tanto complicata se pensi che Snoopy Dogg chiede un camerino arredato secondo certi aspetti proprio architettonici, con tanto di PlayStation e di vari giochi interattivi con grande schermo. Va bene, Incognito al soundcheck di Radio 24 con Above the Night. Sound di Jean-Paul Blue Munich, leader degli Incognito al soundcheck di Radio 24 in questo secondo appuntamento dedicato al management artistico. Soundcheck. Il suono della musica. No more sadness and no more shame. Fra gli artisti con i quali ha avuto a che fare il nostro ospite Roberto Ramberti, manager di Groove Master Edition, ma anche docente di management artistico presso la Casa dello Spettacolo di Roma, fra gli artisti c'è il meraviglioso Marcus Miller, che qui abbiamo ascoltato in una sua produzione per i Take Six con le loro voci in questa versione di Beautiful World, brano scritto da Donald Fagen. Questo è il soundcheck di Radio 24. Roberto, allora, abbiamo creato un nuovo artista, un nuovo personaggio da lanciare, e c'è una fase complessa per un manager: organizzare la promozione. In questo momento in Italia quanto è difficile promuovere un artista? Un artista giovane, tu dici ovviamente. Un artista giovane. È diventato molto complicato, nel senso che ci sono moltissime le proposte che ci sono in giro, molto pochi sono diventati gli spazi, se non quello sul web, per cui si parte ormai, a meno che non abbiamo ovviamente tra le mani un personaggio, diciamo, di livello superiore, si parte dal web, si comincia a fare quello che si chiama marketing virale, tutte queste cose che si utilizzano, social network, Twitter, Facebook e via dicendo. Esatto. Con l'obiettivo di trovare visibilità e avere visibilità e raggiungere un altro, un più elevato livello di conoscenza tra pubblico. Quindi la difficoltà utilizzando internet è quella di cercare di focalizzare il bacino di utenza ideale per quel determinato artista, e poi ce ne sono tantissime di proposte, quindi districarsi fra un numero impressionante di giovani artisti che fanno ascoltare la loro musica attraverso YouTube, SoundCloud e via dicendo. Sì, ovviamente questo non basta, è solamente una partenza, dopodiché va tutto amplificato con la aiuto di uffici stampa specializzati, ce ne sono tantissimi che si dedicano anche solo esclusivamente alle radio, oppure solo esclusivamente alla stampa o alla televisione, e cercare di portare l'artista oltre che per gli aspetti musicali, insomma per la sua proposta musicale, anche per quella che si chiama lifestyle. Diciamo i vari magazine specializzati, sia televisivi che stampati, ma anche sul web, che si dedicano non tanto all'aspetto musicale, ma a quello così dell'immagine, degli interessi, degli aspetti più o meno esteriori, ma anche filosofici di un artista, di una proposta. Le cose si complicano quando si ha a che fare con artisti che hanno fatto delle scelte rigorose musicalmente, quindi non pop per intenderci, e quando poi hanno un'immagine che non è più giovanissima e non così carina come questi due signori che tu stai seguendo da un po' di tempo, due musicisti eccellenti francesi che vanno in giro sotto il nome di Mountain Man, album bellissimo, si intitola Hope, e tu li hai portati in Italia. Come sono questi ragazzi, insomma, hanno già la loro bella età. Sì, non sono più due ragazzini, ma sono due eccezionali. Uno è un armonicista, cantante, e l'altro è un chitarrista veramente forte, cantante anche lui. Fanno blues fondamentalmente, però condito da tutta una serie di gag, e quindi il loro spettacolo è veramente divertente. Sono francesi, arrivano dalla Francia, in Europa vanno fortissimo, e cerchiamo di farli conoscere anche qua in Italia. Allora noi ce la mettiamo tutta, eccoli qui, Mountain Man dalla Francia con furore, il brano, un blues, si intitola Kiss Me, bellissimo. Way too early to get my day gone. You come in talking, it ain't what I want, it ain't what I need. Cut straight to my heart. Soundcheck, il suono della musica. E parlando di management artistico qui al Soundcheck di Radio 24 con il nostro ospite Roberto Ramberti, che fa questo di professione, mi sono ricordato di una lezione di management da parte di due esperti di show business, il mio amico Renzo Arbore insieme a Roberto Benigni, in una gag favolosa tratta da un film cult realizzato da Renzo e da Roberto intitolato FFSS, cosa mai portato a fare in Goppa Pusillipo se non mi vuoi più bene, dove lo sceicco beige interpretato da Roberto Benigni fa una lezione a un manager abbastanza cafoncello interpretato da Renzo Arbore su che cosa deve fare e non fare il bravo manager. L'hai vista questa gag? Te la ricordi? Non me la ricordo, vorrei sentirla. Allora te la faccio sentire. La signorina può sapere come si fa ad avere successo? Giustamente, esattamente. Per avere successo, dicevo, prima di tutto bisogna avere un grande manager. Questo dice lo sceicco beige. Esattamente. Esattamente. Lui sì, esatto. Qual è il grande manager? Oh. Il grande manager è quello che sta zitto, che non interrompe mai. Esattamente. Esatto, quello lì è un grande manager. Esattamente. Sì, è quello che non dice per esempio esatto. Poi deve essere settentrionale. Settentrionale. Più del nord è e meglio è. Di Milano, oltre Milano, svizzero. Milano. Io conosco un manager esquimese, proprio esquimese, proprio sembra un pinguino, un manager pinguino, proprio. Io ho visto un manager. Pugo per la cantante napolitana. Sì, esquimese. Proprio esquimese, sanno tutte le canzoni, oh, solo mio, l'hanno scritta gli esquimesi. Tutto. Mazzo. Poi, seconda cosa, deve avere capelli corti. Ma corti proprio rasati, più corti sono meglio, quasi senza testa. Io ho visto un manager col collo, proprio così. Poi. Terza cosa, voce limpida. Come? Voce chiara, proprio. Come si è stata cantante che ha perduto la voce? Malissimo, malissimo chi è stato cantante. Quello non può proprio fare il manager. Gli ex artisti tutto possono fare, escluso il manager. Poi deve sapere le lingue. Le lingue? Tutte le lingue. L'inglese. Yes. Come dici? Yes. Bene. Però anche il francese. Oui. Oui. Eh? Oui. E tedesco, soprattutto il tedesco. Ja. Eh? Ja. Ma queste tre non sono importanti. L'importante è sapere lo spagnolo. Guarda un po'. Ecco, lo spagnolo. Insomma, deve sapere, deve santa ganja. Ma soprattutto lo spagnolo. Lo spagnolo. Lo spagnolo. Poi gli dirò un'altra cosa del manager straordinario. Deve avere l'autoradio fissa, quelle che non si staccano, che si tenta. Deve avere il vestito. Napoli. Non deve interrompere mai. Deve avere il vestito scuro. Deve avere l'occhio azzurro. Più chiari sugli occhi, più manager di successo è. deve avere, per esempio, non deve avere l'orologio, mai sapere che ora è. Il manager deve sempre domandare che ora è, non dire che è, sennò che manager. Deve avere, deve sempre stare in piedi, il manager sta sempre in piedi, mai visto un manager seduto? E purtroppo questo è il manager. Io la ringrazio di tutto quello che lei, non stringe mai la mano il manager, per esempio, non si alza mai in piedi. Il manager è uno che, ora io la saluto, signorina, il manager non sta mai zitto quando un altro va via. Salam a tutti. Io. Salam. Il manager non ripete mai salam, mai sentito un manager che dice salam? Non ci sono. Arrivederci, vi saluto. Il manager non fa così con la mano. Salam a tutti. Salam. Il manager non si volta verso il lavoro. Luci. Il manager non dice luci. Arrivederci. Un altro artista con il quale ha avuto a che fare il nostro Roberto Ramberti, artista della nuova scena contemporary R&B lì negli Stati Uniti, si chiama Dwili, che partecipa al progetto di Robert Glasper Experiment con No Worries dal nuovo album Black Radio 2. E allora lasciatemi ringraziare intanto Roberto Ramberti per la partecipazione e poi ringrazio Roberto Benigni e Renzo Arbore per questa lezione che mi auguro ti possa essere utile per i tuoi corsi di management artistico lì alla Casa dello Spettacolo di Roma. È stato molto utile, ne farò tesoro e credo che anzi ne farò proprio una... E di dove sei? Sei milanese? Te, di dove sei? Romagnolo. E se romagnolo sei avvantaggiato, perché hai capito, il manager deve stare sempre, venire dal nord, deve avere gli occhi azzurri, i capelli corti ce l'hai, non hai l'autoradio sotto al braccio, sei già avvantaggiato. Parli le quattro lingue? Tutte e quattro, ovviamente, perfettamente. Grazie a Roberto Ramberti, vi ricordo che troverete nelle pagine di groovemasteredition.it tutte le scalette del soundcheck. Grazie Roberto per questo lavoro che stai facendo per noi e noi ci risentiamo domani e vi lascio con la musica di Greta Sbeckeri, una bravissima cantante italiana, già nostra ospite al soundcheck, Greta Panettieri con Tell Me Why, e questa cantante la conosci bene perché hai a che fare molto spesso con le sue fatiche artistiche. Sì, lei è molto carina, molto brava, veramente molto molto brava. Grazie a tutti, buon pomeriggio, buona giornata e naturalmente buona musica da Gigi Telesforo. Remembering all the things that you said the day you left me, but you didn't tell me why. Baby, you deceived me. I thought you Soundcheck, il suono della musica.